Abbiamo parlato di inquinamento, di fattori che mettono in crisi in qualche modo la sopravvivenza non solo dei cetacei ma anche di altri animali che popolano il nostro mare. Qui siamo al Salone Nautico, abbiamo visto una serie di imbarcazioni molto anche accattivanti, però la domanda è questa: per qualcuno che pratica il mare, ovvero sia su barche da diporto sia su imbarcazioni anche più importanti, ci sono dei comportamenti che si possono mettere in atto per proteggere queste specie in mare aperto, ovvero per non fare loro male? Ci sono, e quelle che non ci sono bisogna cercarle e trovarle, ecco, perché questo è assolutamente una necessità se si vuole salvaguardare il mare. In effetti il mare Mediterraneo è un mare che ha tante ragioni per essere protetto. È un mare intanto naturalmente delicato, perché è un mare chiuso e quindi è molto più sensibile all'inquinamento, diciamo. Il ricambio dell'acqua all'interno del Mediterraneo è lenta e scarsa, e quindi è un mare particolarmente delicato in questo senso. Poi è un mare fortemente antropizzato, cioè un mare che da sempre, insomma, diciamo da moltissimo tempo, vede proprio uno sviluppo importante delle attività dell'uomo lungo le sue coste. E quindi in questo senso è un mare che ha bisogno di un impegno di gestione sicuramente maggiore se si vuole salvaguardare appunto la vita marina. Ci sono sicuramente, quindi intanto è necessario conoscere diciamo questo problema e cercare le soluzioni. Per quello che riguarda proprio il comportamento di ciascuna persona, soprattutto quando quella persona è un turista che si muove in mare su un'imbarcazione, io credo che la cosa più importante sia intanto che questa persona sia consapevole del fatto che si trova in un ambiente naturale dove ci sono moltissimi animali selvatici che non possono vivere altrove, cioè che possono vivere solo lì. E quindi dovrebbe sentirsi un po' ospite di questa fauna selvatica e conoscere proprio le conseguenze, conoscere la presenza di questi animali, che sono diversi a seconda che ci troviamo in una zona costiera oppure in un'area invece di mare aperto, e conoscere le conseguenze delle sue azioni, cioè essere sempre consapevole che quello che sta facendo può in qualche modo condizionare una specie selvatica che si trova in mare. E questo sia quando butta l'ancora e magari lo fa su una prateria di posidonie, quindi diciamo reca un danno a un certo ecosistema, sia quando invece si muove con un'imbarcazione, magari con un'imbarcazione molto veloce, in un habitat, in un ambiente dove ci sono delfini. Ecco, è importante secondo me soprattutto promuovere questa consapevolezza, anche se spesso non si vedono questi animali, ci sono, perché noi appunto lo abbiamo verificato, si trovano sotto la superficie, a volte sono visibili quando vengono a respirare in superficie, a volte invece sono animali che vivono sempre, diciamo che hanno pochi rapporti con la superficie, ma comunque vivono in mare, e dal momento che poi è proprio, diciamo, questa ricchezza di fauna selvatica, questa ricchezza in termini di biodiversità, è la ragione per cui poi noi andiamo in mare, per cui vogliamo andare a vedere dei posti particolarmente belli, particolarmente ricchi proprio in termini di natura, eccetera, dovremmo fare il possibile proprio per evitare di danneggiarla. Ecco, quindi questa consapevolezza secondo me è il vero obiettivo, avere consapevolezza di questa presenza. È un po' come se ci muovessimo in un bosco in realtà, ma in un bosco la vita è molto più visibile perché gli uccelli si vedono, si sentono i loro canti, eccetera. In mare no, quando noi ci muoviamo sulla superficie siamo portati a pensare che insomma possiamo fare un po' quello che vogliamo, ma in realtà è proprio come se fossimo in un bosco. Questa è la prima consapevolezza. In termini concreti poi ecco, per esempio fare molta attenzione durante gli ancoraggi, evitare di ancorarsi per esempio sulle praterie di posidonia è sicuramente una buona cosa. E per quello che riguarda invece i cetacei, muoverci lentamente, più lentamente intanto, evitare di raggiungere grandi velocità, di sfrecciare a tutta velocità laddove sappiamo che ci sono delle popolazioni di delfini che magari sono lì con i loro piccoli, che si stanno alimentando, eccetera, quindi in una situazione particolarmente delicata. E se li avvistiamo, cosa che rappresenta un fatto estremamente diciamo piacevole per un turista poter vedere dei delfini. Cercare però di evitare assolutamente di avvicinarsi troppo agli animali, evitare soprattutto di farlo con grande velocità, con movimenti bruschi, insomma cercare di tenersi a una distanza di sicurezza. Questo permette anche di vedere a volte gli animali meglio, perché gli animali sono più tranquilli, quindi li possiamo osservare in un comportamento più naturale. E imparare in questo senso a essere ospiti e a guardare senza disturbare, insomma, ecco, credo che la parola giusta sia proprio guardare e non toccare, ecco, evitare di consumare, di toccare quello che andiamo a vedere. Quindi queste sono le regole. Ce ne sarebbero tantissime piccole regole, piccole cose da evitare, però penso che sia più importante dire che bisogna promuovere una coscienza, cioè sapere che ci muoviamo in un ambiente naturale ricco di animali selvatici e che le nostre azioni possono avere un impatto anche negativo su queste specie. Ecco, tu hai parlato poco fa di poca visibilità di quanto avviene in mare. Questa visibilità aumenta se si visita l'acquario di Genova, perché è tutto davanti agli occhi dei visitatori. E tra i vari animali, i beniamini dei piccoli sono i propri delfini, quindi gli animali che curi tu. Ma perché, secondo te? Dunque, io studio i delfini, mi sono occupato anche della loro gestione e in questo momento mi occupo soprattutto di attività di ricerca proprio su questi animali. Dunque, perché i delfini e le foche anche sono tra i beniamini soprattutto dei più piccoli? Ma credo, fondamentalmente credo perché non sono pesci. Sono animali che hanno l'aspetto dei pesci, però in realtà ci sorprendono per una serie di comportamenti sociali invece che non ci aspettiamo, perché normalmente un pesce ha un certo tipo di comportamento, è poco portato ad essere curioso nei nostri confronti, a mostrare comportamenti sociali simili ai nostri, naturalmente, proprio perché non è un mammifero. Questi animali che invece hanno un aspetto da pesci, ma poi si comportano in maniera così simile invece ai mammiferi terrestri e in definitiva così simile a noi, e quindi permettono un rapporto di reciproca curiosità, a volte proprio di gioco, eccetera. Questi animali ci sorprendono in questo senso proprio per questa loro natura nascosta, che però immediatamente viene fuori quando poi li osserviamo. E credo che questa sia veramente la ragione per cui gli uomini sono così incuriositi, così affascinati dai delfini, da questi pesci che non sono pesci, appunto, cioè da questi animali che hanno l'aspetto di tonni o di squali, ma si comportano in maniera così diversa e così simile a noi. La cosa interessante è che questa curiosità è reciproca. Non sono solo gli uomini ad essere affascinati dai delfini, anche i delfini sono affascinati dagli uomini, e può capitare di vederlo questo proprio muovendosi in mare e osservando che alcuni cetacei si lasciano avvicinare abbastanza, e addirittura talvolta sono loro ad avvicinarsi alle imbarcazioni per vedere da vicino gli uomini, fondamentalmente. Accade con delfini che si incontrano facilmente, come le stenelle, che spesso vengono a nuotare nell'onda di prua. Talvolta accade anche con i tursippi, che però tendono ad essere un po' più riservati, un po' più schivi. Capita con dei grandi delfini come i globicefali, che mostrano una curiosità spiccatissima, che si arrivano addirittura a toccare la barca, insomma un comportamento veramente straordinario in animali selvatici. E dal momento che non ne hanno nessuna ricompensa, questa attività non li porta ad avere del cibo, non li porta ad avere un ritorno pratico, concreto, credo che la ragione sia proprio una curiosità così istintiva, simile a quella che proviamo noi nei loro confronti. Questa è un'altra delle ragioni per cui dobbiamo fare il possibile quando ci muoviamo appunto nel loro ambiente. Ricordiamoci appunto che l'ambiente è loro e noi siamo ospiti, nel senso che loro non hanno alternativa, ecco. Dobbiamo fare il possibile per evitare di danneggiarli. Senti, proprio questa curiosità che ti ha spinto ad avvicinarti a questi animali e a diventare biologo, è la stessa molla o c'è stato anche qualcos'altro? Ma sicuramente io sono sempre stato affascinato dai delfini e dai cetacei, ma come tutti, come tutti da moltissimo tempo, perché la la letteratura dell'uomo è ricca da sempre di storie sulle balene, sui delfini, quindi è un fascino che l'uomo ha da sempre. Io sono in generale, non sono affascinato solo dai delfini, però io sono in generale affascinato dalle forme animali, da questa straordinaria diversità con cui l'evoluzione produce delle forme animali particolarmente diverse, particolarmente colorate e funzionali allo stesso tempo, insomma animali che volano, animali che nuotano, mammiferi che nuotano, pesci che volano, insomma veramente c'è di tutto, è uno spettacolo veramente incredibile che mi ha sempre affascinato da bambino e continua ad affascinarmi anche oggi. Quello che mi dispiace è che in realtà però l'uomo tende un po' ad allontanarsi da questa natura e perde un po' il contatto e la possibilità di compiere queste osservazioni di questo mondo veramente incredibile, insomma. Quindi ecco, io ho avuto la fortuna di viverci dentro, diciamo, di continuare a studiare e osservare il mondo naturale e spero veramente che questo gusto per l'osservazione del mondo naturale si diffonda sempre di più, ecco, che non succeda al contrario, che si perda invece l'abitudine e il piacere di osservare il mondo naturale e di conseguenza che si faccia anche il possibile per preservarlo. Purtroppo noi siamo testimoni di un periodo piuttosto triste per quello che riguarda la biodiversità, proprio la presenza di queste forme di vita così particolari, così diverse. Siamo testimoni e protagonisti di un altro periodo, proprio di un'altra fase, diciamo, di estinzione di massa, di cui purtroppo siamo anche corresponsabili in buona parte. E quindi io veramente mi auguro che questa fase si conclude e inizi invece un nuovo periodo con una grande attenzione al mondo naturale, con una grande attenzione proprio culturale, intellettuale invece alle bellezze del mondo naturale. Ecco, ci avviamo alla conclusione, l'ultima domanda è un pochino più personale ed è Guido, per te, biologo dell'Acquario di Genova, impegnato in attività di studio sui cetacei, cos'è il mare? Non è una domanda semplice. Beh, diciamo, io almeno due mari io conosco. Uno è un luogo di ricerca, un luogo appunto dove vivono molti animali diversi, affascinanti. Tra l'altro un mondo dove vivono animali anche molto nascosti, spesso proprio difficili da studiare o semplicemente da scoprire. Tu sai che è più facile osservare la superficie della Luna che il fondo del mare e infatti il mare nasconde ancora moltissime specie che noi non abbiamo mai descritto e in alcuni casi si parla anche di specie molto grandi. Ecco, vengono descritti in tempi moderni dei cetacei, dei grandi cetacei lunghi 7-8 metri che non erano mai stati descritti prima, oppure grandi squali che nessuno aveva mai descritto prima. Ecco, questo può succedere solo nel profondo nelle profondità marine, perché là è veramente difficile guardare e questo quindi è l'altro aspetto che mi affascina, quindi diciamo più poetico, meno scientifico, che rappresenta ancora il mare e le profondità marine rappresentano ancora il mistero, ancora la natura che non si può conoscere completamente e quindi anche il gusto dell'esplorazione come avventura ma anche come viaggio proprio verso una dimensione che è diversa dalla nostra, in parte sconosciuta, anche terrificante perché il mare racchiude anche moltissimi, diciamo custodisce anche moltissimi moltissime navi, barche, battelli sommergibili che hanno provato a esplorarlo ma non sono riusciti, diciamo, a fare ritorno, quindi c'è anche questo mistero di questi viaggi senza ritorno proprio per cercare di esplorare, di sondare invece il mistero, insomma il mistero in generale, il mistero della vita. Bene, noi ci fermiamo qui, ringraziamo Guido Ognone per la bella chiacchierata. Grazie a voi. E ringraziamo voi per l'ascolto, vi diamo appuntamento su Radio 24.